c'è nessuno pronto. Attento, per il Vella. Luca, per il Vella. Sto mangiando, direi. Solo che la mettiamo qua da me a asciugare, capito? C'è troppa umidità nell'aria, ci mette troppo tempo ancora. Ah, va bene, va bene. Ottimo, ottimo. E poi adesso vediamo. Fare un giro di telefonate. Kappa Kappa. Scinteggio un cane. Ho ragione, sì. C'è quello dalle 4, non cade dentro, non scinteggio un cane. Stamattina ho sentito Gianni. Era in giro in macchina. Oh, e allora io non c'ero, allora ero poco dottore, sì. Osacci, Kappa Kappa. Io mi stavo guardando quelle capsule di quei citofoni. Io, io. Te l'ho detto, qualcuna ce l'ho anch'io, però bisogna vedere l'impedenza, se no è troppo citofonica la modulazione, capito? Ti ho mandato una foto. Non è arrivata ancora, eccola qua, aspetta. Cazzo di bomba, ragioni che. No, le mie sono più piccole, appena più piccole. Un po' più piccole sono, capito? Sì, ci sono più di veci di citofono, di goce. Di cornetta di citofono. Così? Ah? Hai visto quanto sono grandi? L'ho visto, l'ho visto. Un bel grande sono. No, le mie sono appena più piccole. Forse ci stanno a malapena nell'SBE, non lo so neanche. Nel Turner non ci stanno, non credo. Forse nell'SBE sì, forse, perché sono un bel grande. Nell'SBE ci sta quella che ho io, forse. Perché quasi entra nell'MBB più 5, capito? Nel Turner ci sta, nell'MB più 5 è leggermente più stretto. No, nell'MB più 5 non ci sta. No, quella che io ho detto non entra neanche nell'MB più 5, però nel Turner più 3 sì, capito? Va bene, va bene. Adesso la metto nell'SM20 allora, ecco. Nell'SM20 allora. Non va bene, là. Cosa hai detto, Lu? Ho detto non va bene perché nell'SM20. No, nell'SM20. SM20 da Saghissa che originale, così mi ducca la SM20, ti esce bene, c'ha più acuti, ma non è che la radio è brutta, no? Boh. Secondo me esce meglio con la V908, che per me, dico, per la voce mia, che c'ha l'equalizzatore. Vabbè, mi sa che mi metto a farmi quel circuitino all'SBM a finirmelo, che devo cercarmi le connessioni, eccetera, e poi lo provo. Fai, fai, accetta la radio, produci, già sono qua, io sto volando alla televisione. Kappa, già sono in ascolto comunque, e mi metto in moto di nuovo con quel microfono. Eia, già sono qua. Eia. No, c'è uno che sta vendendo un GFK come nuovo, B più 4 nuovo mai usato. Ho detto GFK. Il birichino, GFK. GFK, boh. Non lo conosco. Aspetta, sto girando la foto. Ehi, buia, come foto. L'ho fatta buia, cazzo, boh. Ma è un veicolare? Ah, dirti di sì. Cosa? È un veicolare. Sì, un veicolare. Un po' su, non so, forse ci assomiglia a... non lo so. A Texas, Ah, mi interessa il veicolare, ma già non mi interessa più altro. Sono pieno, va bene così. Ah, io mettiti a fare però. Beh, ciao, dopo. Ehi. Ciao. Sto facendo traffischi. un segnale buono, però radio tutta frusci e neschi. Chi è? No, non esci di radio. Brecco, cambio, passo. Chi è qua sul canale 10 che non esce? Aiuto. Non lo esce, paura. Non ci sono altri canali da provare. Non è che devi stare con la portante a 9+20. Se non esce, spostati in un altro canale. E beh, Massimiliano. Ciao Cla, buonasera, cambio passo e poi cambio. Ehi, qua siamo. Avevo sto segnale a 9+20, se non esce vai in un altro canale, no? KG, e beh, messo a posto stare la TV. Non faccio la politica, qui è 9:10. E qua 9:20, adesso ti ho sentito sotto, ma non capisco, cioè se devi fare delle prove non ce ne sono altri canali. Ciao, rimani qua, passa al canale 15, Massimiliano, va? Stazione 10, c'è qualcuno? Hola? Hola 10? Avanti, avanti, chi è la portante col fischietto? Sempre Giulio, qualche qua stolfo che non sa come rompere le yo-yo. Non passi Giulio. un puntino. Questo ha intenzione di disturbare e basta, io non capisco come mai. Che qua? È un embriaco. E allora? No. E adesso? Avanti, che era molto. No, non è possibile. Non mi viene niente, ma gente malata. Ma come sono impegnato io, se no vi hai assarrato tutto. Già sudato tutto. Non sto facendo roba, sicché sono qua. Vabbè. Cosa vedi? Sì, sì, 140 che mi avevi fatto comprare tu e il 430 che ce l'ho 10 anni, capito? E boh, non c'ho altro lì. Finiti i giochi, solo baracchini. E l'antenna manto, va, parole sbagliate. Antenna sempre manto, va, no, bisogna discutere da fare. Antenna manto, va, capo buono. Ho eliminato anche il commutatore d'antenna lassù. Mi ho tolto tutto, Robella, mi ritrovo in quello elettronico. Tanto cosa ne fai? A fare lì in mezzo all'acqua. Eliminato tutto, non c'è più niente. Cosa? Solo la mantova c'è. Adesso vuol togliere quelle due antenne piccoline VHF, perché intanto non c'ho manco più VHF, quindi le tolgo, le conservo. Può capitare magari attaccare a qualche portatile. Avanti già. Ehi, già va bene così, queste radio vanno bene. Io adesso mi voglio cambiare il campo, però cazzo, una scalogna che ho trovato uno che è a 4 invece che a 6 come quello che c'è, e non so se si possa cambiare, che se no è di quello morbido con la mola quella morbida. Ehi, vabbè, già si cambia quello. KK. Avanti, Massimiliano Buldozer. Sì, no, ti stavo guardando una cosa, ti mando una foto se ti può interessare, non lo so se lo vuoi così però, preso proprio di lì se della terra. Mandala a me, tanto non gliela prego, la voglio solo vedere. Di radio? No, no, già, no, no, io concordati sono arrivati già. Cosa ti ho detto a te? Mi sembra che tu la memoria già ce l'hai buona. Ti ho detto o compro se trovo un Simba, se no se trovo un Galaxy a buon prezzo mi compro il Galaxy, almeno so che c'è una radio, un baracchino base serio completo, capito? Perché chiaramente il Simba non è completo come il Galaxy. Ho trovato l'occasione che Danilo la sta parlando e mi sono comprato la sua, 200 euro, e sono contentissimo, non contento, contentissimo. Cassa stereofonica come ricezione, se la metti a tutto volume intendo ne avvolzi, cuia. E vabbè, lo so perché io ho sentito tante volte, avevo ti comprato più raro, basta, adesso è finito, da cui dicevo, ma sino alla prossima usa, mi, dopo dice, beh, ma adesso l'ho tirato una che mi è piaciuta, io mi lui. I vintage che ho sono a livello insomma di proprio da collezione, no? Il Pony, il Noit, l'Inter che è quello che mi hai fatto avere tu, lo Standard, il Sommergibile, il Pace, il Midland, il Duck, sono tutti a livello di collezione, hai capito? Però questa non è più da collezione, questa è il vero baracchino, io posso chiacchierare tranquillamente, già capito? Ma tu adesso che microfono hai messo? Sì, sì. Esce un bel bene, esce molto bene. Non so come stia uscendo io, però quella lì esce molto bene. No, no, esce bene, esce bene. E quanto mi assomiglia a questo? Non capisco, mi fa da brinuga sul telefono di merda. Pesi 40 euro. Ma lì c'è la foto reale? Boh. Non c'è scritta Tarne più 3, però è un Tarne, però bisogna vedere se c'è la capsula originale, si può contattare, guardi la puttina della scritta. No, non è la puttina della scritta, mi fa fare giù tutti quelli scritti. Cazzo c'è quella le gay che più se ti mando con le gay, è fiammante, c'ha tutte le scritte, tutto bellissimo. Si accende la luce quando pigio il PTT, lascia PD, già lo trovo come Cristiani, se spendo qualcosa in più, ma almeno c'è un microfono nuovo, chi si mette la mezza gaggata? Che avanti? Chi è? Abortante. Ma qua 9 più 5, non è forte, dai. Avanti che volete andare su 10. Ma che qua, sentiamo nuovo. Non è quella di poco fa. Manda la Gianna avesse l'interesse, no, a me senza scritta non lo voglio. Io lo voglio bello, Massimiliano, capito? Tipo quello c'è tu che è nuovo, questo, capito? No, non ne voglio gente scritto. KK già. Sarà il clone quello con Massimiliano. Che cosa? Sarà un clone. No, no, sarà un clone, boh, non lo so, comunque. C'è anche un altro su Facebook, su Marteprio, 80 euro, ed è nuovo. Brecco, brecco, brecco. Avanti, avanti, avanti. Buonasera, buonasera, buonasera. Ciao a tutti. Ciao, Brefe. Chi c'è, chi c'è? Buonasera. Ciao Gianni, ben sentito. Ciao Rubi, buonasera. Beh, Brefe, com'è? Milomi. Cosa? Ho detto Milomi a Pizzu, mi. Ciao Massimiliano. Chi è Pizzu? Gianni Rubrofetta da questa parte, buonasera. Ah, ciao Rubrofè. A 31 c'ha il tuo stesso più o meno nome, Rubrofetta, chi su bro? Quello è un clone. Cos'è, un drone? Oh, yeah. Aio, fa vedere. Beh, l'hai visto già. No, ma mi piace, voglio la scritta, si deve vedere. Vai Robè, per i saluti a Gianni Brefetto. Lì l'ho già salutato a cosa Gianni. No, ma c'era qualcuno che voleva entrare poco fa. Non so se c'era qualcuno che stava ascoltando e gli è suggito il PTT. Comunque lo rilanciamo e vediamo un pochettino. Avanti sul 10 che vuole entrare. Sì, 9 più 5, Radio 5, non è fortissimo ma ti ascolto bene. Avanti Claudio che farà girare per Massimiliano, Brofetta e Doppio Rum. Capri Rosmetto, ciao Gianni Capri, buonasera, ben ascoltato. Un pochino più forte a me, quasi 9 più 10 e Radio 5 è perfetta. Vediamo se ti ascolta Massimiliano dalla bassa valle lì della spunta. Vai Massimiliano. Sì, ciao Gianni, buonasera Capri, buonasera, ben ascoltato dopo una marea. Avanti Doppio. Ciao Gianni, saluti a casa. Saluta Claudio e a Franca, ok? Se voi siamo qua, quando sì, l'ho visto la foto già, l'ho visto, ti ho mandato un ok, molto bello, ho visto anche quel pomellone, dai. Va bene, allora cambio per Gianni doppio room e poi vai per Gianni perfetta, intanto io inizio a mettermi le scarpe così tra un po' vado a sistemarmi il cagnone, ok? Avanti doppio room. E deve essere al telefono Gianni o Gianni Capri. Vai Rubrofè. Ehi, ciao Gianni, lavoro su Capri 2, buonasera. Mi hai sentito, dai? Gianni è un telefono. E Bulldozer che fine ha fatto? Qua. Il Bull è qua. Con Serpente stai andando? Ehi, bene, mi ascolti? Ehi. Aspetta che tocco questo bip che... Ecco, così togliamo il bip. Il Serpente. Che te l'ha venduto? Domate la rettore. Ehi. Non gliel'ho pagato, giustamente, glielo usavo, cosa mi ha dato? Dai, un baratto, dai. Così esce, dai, io mi sto preparando, così porto il cane e poi sono un po' più libero. Riprendete voi, fate girare la roda. Ma non hanno inventato un gattetto le baringane, no? No, ha già attaccato una buca da lì e c'è tutto gaggato sotto. Sì, però io sento gente parlare sotto, è propagazione, boh. Ma ci vedi, io sono ancora un po' più vatti, non mi interessa, se c'è qualcuno che sta disturbando, dimmelo che spengo tutto. No, l'avevo preso nuda, tu cosa pensa a pochi fatti, c'è invece propagazione. No, non sento niente Massimiliano, con la zona sei tu è micidiale, entrano segnali anche bassi, perché sei nella bassa valle, molto più vicino al mare, qua in alto, solo VRM, buco. Comunque, claro, questa antenna è come ricezione superiore alla Mantova. Vabbè, dalla me allora. Troppo su buffio. E perché? Ti do un palo senza antenna io. Vai a portare il cane, vai, non fammi parlare, già lo sai. Avanti, vediamo un po' se c'è il doppio room. Guarda, ti ho mandato una foto, mi. Doppio room non riprende più, il parido. Si sei dormito, mio, Rubrofè. No, che telefono, anche detto. Vai, Rubrofè. A me mi hai mandato una foto. Ah, sì, c'è un WhatsApp. Forse come sono andato a prendermi le scarpe. Avanti già, riprendi. Me l'ho ordinato, te l'hai preso il Tanner? Speriamoci che funzioni bene. No, ma ha detto che lui non lo sa se è tale, è un anziano, non è gente che ti frega, una persona anziana che non capivi manco come parlava a volte. Ma mi ha detto che lui non lo sa se è proprio un tale, però dice della tipologia del tale, perché lui l'ha sempre usato e funziona bene. Vabbè, però io voglio rifiutare il tale, tipologia non ne voglio. Il prezzo è interessante, non è che casca al mondo per 40 euro, però io voglio un Turner, con riscritta Turner più 2, Turner più 3B, capito? Avanti Rubrofè. Ciao Gianni, cos'è di acquisti sei? Massimiliano ha visto questo microfono, tipo Turner, così, non lo so se è un Turner oppure se è un similare. Quest'anziano sta vedendo anche altra roba, Midland, altra roba, gliel'ho chiesto, ma ha detto che sta andando anche altra roba che non sta più entrando lui, perché è vecchio ancora, è vecchio adesso e non entra più. E sta vedendo un po' di roba, ha detto c'è una stazione in base, ma ha detto di no, che c'ha solo piccolare. Questo è un Turner più 3B, bello, però lo doppio, 80 euro, vedi? Mercatino scambio e vendo. Radiomattoriale, CB, ok, Tefalento, del Salento. Questo è nuovo Massimiliano, questo è come quello che abbiamo noi, qua. C'è scritto, bello, Turner più 3B, ma è nuovo, qua, è lucido. Questo è un Turner. L'ho mandato anche a Gianni. Questo è 80 euro però, non 40. Appunto ha detto blocco te lo doppio, questo è 80 euro, ma il prezzo suo 70, 80 euro, 90 euro. Capito? Però deve essere Turner, c'è scritto qua Turner, più come era il tuo Massimiliano, questo ora quello qua le scritte nuovo, è bello. Questo è interessante. Adesso fammi portare il cane, poi vediamo. Raga, io mi allontano un quarto d'ora, vado a portare il cane e poi ci sentiamo, ok? Vai tranquillo Claudio, vai. Vai a portare il cane, là. Però già, non è della tipologia, la forma è un Turner, capito, quello lì. ricordassi pure che magari nel tempo, lucidando, ecco, mi è uscita la scritta, ma cosa abbiamo da fute, cioè, se funziona bene, come dici tu, ma 40 euro cosa vuoi? Ma te lo dà 40 spedito o più la spedizione? Oh, non me ne ho parlato, mi ha detto solo 40 euro che già mi ha detto lo paga quando arriva al corriere. Ah, direttamente spedito pure, fatti un conto. Mettici quelle 9 euro di spedizione, quindi lo stai pagando 30 euro il microfono, là. Va bene. Va bene, sì. Addirittura mi ha fatto anche il metodo, lo paga come vuole. Io ho detto, com'è il pagamento? Non come vuole lì. Se lo vuole pagare al corriere, lo paga al corriere. Visto considerato, dice che c'è questo coronavirus, andare in giro, non è molto bello. Mi ha detto, va bene, dice, ho detto, quando arriva glielo pago. Quindi già tutto indirizzo e te lo spedisce già, no? Sì, sì, no, c'ho già tutto col telefono, già tutto quanto. E per 40 euro da prendere, c'è una similiare. Questo è a qualche cosa servo ancora, là. Avanti, Rubroffè. Grazie, grazie. Bene, Meda, ci vuole intermediario sempre di fiducia. Per combinare buoni affari. Sì, vabbè, ma alla fine, cioè, come, boh, vabbè, è sempre bello vedere la scritta, però, cioè, se funziona bene, ce l'hai a casa, ma cosa abbina furti? Poi magari non va bene su una radio, lui ne ha tante, lo può abbinare in un'altra radio. Ciucacciù, ciucacciù. Cappa cappa, va bene, dai già, quindi ottimo affare, no? Ottimo, ottimo, Massimiliano, grazie. Quanti volevo dire, Massimiliano? Adesso sono tutta la sera che sono collegato con gli strumenti, non sto facendo nessun rumore, non voglio pinnacciarmi, ma... Sei teso con i zenni? Oh già, va tranquillo. È così, lì c'è qualche spezzone, qualcosa che sta andando. Ah, ecco, ricollegato tutto, e vabbè, buono, buono. Ti volevo dire già, quel microfono, visto che non ha le scritte, balle varie, quello come ti arriva, le chiudi una bella verniciata, quel nero opaco, o nero lucido, ti fai nuovo. Sì, c'ho già la bomboletta a casa, io già lo faccio bello, già fatto altri microfoni, li ho fatti diventare nuovi, ce n'era uno che era stato in grigio, a me grigio non mi piace, e l'ho fatto vero. Così vuole, va bene, dai, avanti Ali. E saluto a tutti, ben ascoltati. Avanti Massimiliano, fai girare. Ehi, dai, amici, siamo io, Gianni, Lubrofetta, Claudio che è andato a portare il cane, c'era Roberto Quadrato che non so che fine abbia fatto, poi non so se c'è qualche altro in ascolto. Avanti, Lubrofetta. Beh, la pattuglia se l'ha portato via. Ciao Alessio, buonasera. Sono rientrato io comunque. Sì, a Roberto. Ma l'ho ordinato qui quel microfono. Che cosa? Che me l'ho ordinato quel microfono lì. Quello panna che state dicendo? Sì. Vabbè, se è buono, no? Con la terra regalata. Beh, sai, lo è un anziano, non è gente che ti frega, non riuscivo manco a parlare, poverino, non si capiva manco cosa diceva, infatti mi ha passato la muglia per prendermi in istituto perché è tribunale. Perché? Tremava parlando, parlavo di... Vabbè, magari la persona anziana, dai, non c'è problema, l'importante è che sia efficiente, poi anche se è un po' rovinato di vernice non succede niente. E li vendono abbastanza, vendono cacchio un MB più 5, ho visto uno scemo 70 euro, vai te lo compri nuovo e questo se lo sta vendendo 70 euro. Poi ce n'era un altro, 50 euro con la scatola, nuovo era, proprio sembrava uscendo dal negozio, ma prezzo ragionevole, uno se te lo dà 50 euro spedito, anziché ordinartelo da Fusaro a 70, te lo dà spedito 50 euro. Se è una persona affidabile si può prendere. Un Tanner è regalato quel prezzo. Sì, sì, i 40 euro non acciappi blu più. E cosa ti danno? Anzi, tu fatti il conto che glielo ho dato 40 spedito, perché poi alla fine paga 40 euro al corriere e le sto dicendo a Gianni, quelle 9 euro di spedizione ce le devi mettere. E poi chi l'ha detto che non c'è scritto? C'è scritto Tanner più 3B. C'è scritto? Cazzo, ma ci vedi, guarda, non me ne manco tu. Adesso lo riguardo. C'è anche io il più 3B da un sacco di anni e un microfono funziona benissimo. Forse per i baracchini è il migliore che c'è, di tutti quelli, senza arrivare ad altri tipi di microfono naturalmente. Quello che si adatta meglio, c'è una bella modulazione, pulita, anche quando amplifichi non distorce, perché l'MB, la serie MB, come te appena inizia a distorcere e a cambiarti un po' la modulazione. Quello invece anche se alti te la tiene costante. Aspetta un attimo, già, la foto che ti ho mandato mio, di quelle tarne più 3B, se leggi bene, quello c'è scritto 80 euro sotto, quello è un altro, non è quello che tu hai ordinato. Ah, ecco. Vedi bene, se tu apri la foto, questo è nuovo nuovo, però è 80 euro. Va bene, dai, riprendi, Pomponia. Oh, io ne ho tre di tarne, c'è uno di veci, quelli che hanno la levetta di blocco con una linguetta, tipo una mezzaluna celeste, poi ce n'è un altro militare, tre o quattro ne ho di tarne. Figurati, ma cosa ti faccio? Domanda a Massimiliano Cantinà, chi ti fa la collezione? No, no, io... Basta, non ce la faccio a campami con le tue stagionate con baracchino, non saranno. Meglio le bistecche, guarda. Ciao, te l'hai ben sentito. Sì, c'è Rubrefet in parcheggio. Avanti, Rubrefet. Turner, io di Turner conosco Tina Turner. Anche io l'ho conosciuta. Ted Turner, cos'era? Un cantante? Cos'era? Un attore? Ted Turner. Io conosco solo la Tina Turner, è femmina, capito? Non è maschio. E quando era giovane era una bella donna quella. Se ti vuoi comprare un lineare, 1150 euro a Roma. Deve essere bello grosso questo lineare. E la Meritron AL811H, figurati. A merito non sai quali sono, quelli che fa Ingegner Frignani della Magnum, che ha concesso l'utilizzo alla Meritron, è un bellissimo amplificatore, però sono per gli HF quelli. HF infatti c'è scritto, lineare HF, pochi mesi di vita in ballo originale, eccellenti condizioni, 1150 euro a Roma, già tra di voi. Ma pagano il Colt è quello 8000 GX, lo pagano 1200, 1300 euro, un baracchino, ragazzi, che va solo la M e 120 canali. Perché la gente è pazza, non per l'altro, hai capito? Cioè, sono baracchini anche di meno, della Midland, che stanno vendendo 170 euro, 150 euro. Ormai hanno diminuito i Midland, quelli modello vecchio, già modificati. E allora un secondo, avanti già. Ehi, non mi ero accorto di una cosa, Massimilia, che c'ha, mi manca un pezzo dove parli, per il microfono. Cosa? Che c'è, che è rotto dove c'ha, dove parli, il microfono. Ehi, ma non li fa nulla già, vattene frega. E metti la spugna antisuffio e non si vede più nulla. Ma stai dicendo la grigliettina già? Dai, ci sentiamo dopo, ciao. No, la cordicetta che c'ha attorno, quella cordicetta rotonda che c'ha attorno, cioè lì manca un pezzo. E che cordicetta c'ha più 3D? Come te lo posso dire? Praticamente la capsula va dentro la struttura del microfono e quella struttura rotondata dove si incastra la capsula, quella lì è spezzata, c'ha un pezzettino nel mano. Il mio non ha nessuna cornice, ma dove ce l'hai dicendo? C'è quella a fare tutta la microforata in alluminio, di lì stai. Allora no, da parte la struttura in ferro ce l'ha presente, dove incastra la capsula, dove c'è la rete, e incastra la capsula, la struttura rotonda che c'è, quella struttura rotonda le manca un pezzettino, dove c'è il caduto e si è rotto. Non ti capisco perché io non ho nessuna capsula, cioè il tarne più 3B è tutto nero, c'è scritto in alluminio più 3B, c'è un interrotturino che lo accende, che mette il loco, il volume e il tasto PTC, non c'è nient'altro in plastica, non ho nient'altro io. Non è plastica, è la parte in ferro, la parte della struttura del microfono, è la parte circolare anteriore dove incastra la rete, la capsula, come lo vuoi chiamare, tutta la lampada per parlare. Il cono, dai, il cono troncato. Esatto, il cono. E potrebbero prendere. E cosa c'ha di lì il rotto? Non ho capito. Se metallo ora si rompe lì. Un pezzettino di ferro gli manca, deve essere come caduto si è spaccato. Ah, infatti ho detto, ma non ce n'è plastica, ecco. Ma già si può riportare piano piano. Se ti diverti, c'è con l'acciaio liquido, lo impatti, è un coso protocatalizzato, glielo riempi e poi piano piano con la carta abrasiva glielo levighi, glielo cerchi di sagomare prima con la lima, glielo riporti e poi lo vernici. Sono rientrato. Tante cose si può fare. Lo arrangio io. Anche con silicone nero si può fare. Vabbè, il silicone è gommoso, non esce bene. Lo usi il trucco di carrozzeria, eventualmente ci sono quei tubetti leggeri, già si fa. va bene, andava bene. Beh, ci sentiamo che Italia sta brontolando. È andato bene tutta la sera, questo mi fa piacere. Andava bene. Meno male che abbiamo tutti gli spezzoni, si rabbia le luci. Bravo Gianni, bravo, bravo, dai, sono rientrato. Ehi, ehi, Claudio. No, io ho riattaccato gli strumenti, vedo che sta andando bene. Mi si sa se continua così o meno. Ma lo sai qual è il problema già? Che adesso tu cosa hai fatto? Hai fatto un passaggio che può essere sempre una coincidenza, no? Hai staccato tutto, bibumba, e hai attaccato l'antenna diretta. Poi hai ripreso l'antenna diretta e l'hai attaccata agli strumenti. Può darsi pure che in quel passaggio lì hai messo a posto qualche PL e non te lo sta facendo più. Il problema è perché Massimiliano ti ha detto di metterti in un commutatore buono. Ok, adesso ti hai comprato il microfono, cercati anche un commutatore buono della Rai, vado a spendere 40-50 euro. Intanto guarda, sono soldi spesi bene, perché ti do io proprio, a me mi è successo per non spendere, prendevo questi cacchio di connettori che non servono a niente, capito? Quindi ti compri un bel commutatore, li attacchi l'antenna una volta per sempre, li lasci attaccata e tu vai a commutare a ogni radio, non stai staccando e attaccando, sta perché a te quel problema, può darsi pure che te l'abbia fatto attaccando e staccando, attaccando e staccando. Capito? Fare sempre una coincidenza. Adesso oggi provo tutte le radio, mi come te riattacchi un galaxy di va zero difetto. Capito già? Vabbè, adesso vediamo. Vediamo se va bene. Allora bene, ci sentiamo ragazzi, io sto scendendo giù, dai, che questo si sta lamentando, vuole scendere. E io l'ho portato in fretta perché stava andando e tornando, ma ha fatto infatti subito i bisogni, adesso si stava caccando. Oh, la puntuale, ne ho in punto e lui subito chiama, capito? Sì, il mio ha cambiato orario, prima alle 7:30, adesso oggi alle 8:15, vabbè, già va bene. Avanti a chi tocca. I cavi, cambiando il discorso, i cavi, la cosa, ho messo il Paoloni che è la migliore ditta, forse una delle migliori in circolazione, almeno in Italia forse la migliore che c'è, ha fatto un nuovo cavo, delle dimensioni appena appena più grande delle RG58, 7,3 mm, stavo guardando le immagini, è una cosa allucinante, non c'è un cavo di quelle dimensioni al mondo migliore di quello, migliore, molto migliore del 213U, però è 3 mm più sottile, è fatto apposta per il radioattore, per altre potenze, per cose, però è flessibilissimo, però è più sottile del 213, costa la bobina da 100 metri, costa 200 euro, la stavamo in offerta, ma se avete quel cavo è allucinante. Vabbè, io ne ho preso una bobina da 100 metri, me l'ho divisa con un'altra, abbiamo pagato 250 euro di H1000, quindi non me ne serve a me il cavo, non c'ho più niente da poter attaccare altri cavi, ho eliminato anche il commutatore su, c'ho un cavo di discesa, e boh, uno solo, capito, per la Mantova, e basta, collegato al commutatore d'antenna dove commuto sia i 2K che i baracchini, basta, fino a quando rimangono più ci abbigliamo in gomma della vostra mano, chi è che ci è rimasto qua? C'era Gianni Rubroffetta, avanti Gianni. E Massimiliano, tutti andati via sono. Mi pare di sì, Massimiliano non so cosa voleva fare, Gianni mi sembra andato a portare il cane. E poi c'è Alessio, c'è avanti Antonio. Tutti i pariti già. E anche io tra qualche minuto vado che mi sta venendo un po' di coso di langorino di mangiare. Là. E tu già mangiato, ecco. Ho mangiato, allora io di rimagno. No, stiamo già alle 9. 9:15, 9:15, dipende. Ieri abbiamo mangiato alle 9. Sono le 8:05. Kappa. Va bene, in questi giorni non ci siamo visti, vabbè, perché ero un po' incasinato. Stamattina avevo delle visite, delle cose, ho fatto mia moglie a fare la visita di controllo al policlinico, ero lì che stavo aspettando, mamma mia, rottura di palle. Adesso domani mattina mi dedico a fare altro. Ma si è ripresa, in piedi sta già? Si è messo le scarpe da tennis, quelle buone, non scarpe buone, le usa mia figlia anche per lavoro. Capito, però sì, cammina non male, neanche bene, però le fa male la pianta del piede, capito? Già lo so, ma di lì lo sai cosa conveniva, secondo me, le compravi un paio di scarpe da tennis di numero molto più grande, poi ti rampi, vabbè, non se ne fa nulla, e piano piano lei, senza piegare, perché naturalmente deve stare attenta al coso, così piano piano sta in piedi, perché stare sempre seduta, coricata, lo sai come ti fai? Lo so, infatti, no, è un numero più grande questo, quindi, però la pianta del piede, le facce premate, dovete adesso, piano piano insomma, già si metterà a posto, dai. Non sarà un problema, ci vuole sempre ogni cosa a suo tempo, c'è niente da fare. Vabbè, non mi ricordo, ti devo dire una cosa, non mi ricordo più. Ehi, già ci sono domani fino alle 10, se non hai niente da fare, tanto sto facendo dei lavoretti, finendo quel lavoro del campo, sto facendo, adesso a buon punto, ho messo già i pannelli di comando e vanno collegati. Ah, KK, va bene. Ehi, devo, non so, ci mi alzo presto perché il sabato e la domenica mi sto alzando un po' più tardi, tanto non puoi andare manco a prendere un caffè, a me fa lo zingaro in Chivi a prendere il caffè così, con le condizioni non mi interessa. Ilaria sta facendo una ciambella proprio per far colazione, e quindi faccio il caffè a casa, faccio colazione con calma, porto il cane, insomma, vediamo se esco presto, già passo a trovarti dove, come faccio sempre, e questi giorni sono un po' assente da... Beh, tua figlia ha ripreso nel piccolo sempre, diciamo. No, mia figlia è chiusa, cosa deve stare? Lì a fare la zingara, aspettare che passa uno, a fermarsi lì a prendere un caffè. Mia figlia è chiusa, no? Non mi frega niente. Quando danno l'apertura riaprirà. No, non esiste lavorare in quella maniera, Robert. È da zingari, capito? Sono solo spese e basta, non casci nuda, perché tanto fuori non puoi dare niente a bere, è solo le colazioni, cosa fa? Si alza presto per prepararsi le colazioni, ma è cacciato il tuo, ma vai. E dimmi un po', e come fanno per la gestione e per l'affitto del locale? C'hanno il fondo, se ne pagano da lì, recupereranno, se vuoi dire. Che vergogna, cazzo, questi merdosi, cazzo, hanno distrutto tutto, cazzo. Hai visto, in altre nazioni hanno già aperto tutto, hai detto basta, non te ne affutti nulla, apriamo tutto, cazzo, non puoi rovinare l'economia. Tanto se vai a testa loro ne finirai all'anno prossimo, non hai sentito, cazzo? Dice sì, no, l'autunno prossimo ce lo portiamo, ma tanto ammazzi, così muore tutta l'economia italiana. Tanto è già morta, continua a morire ancora di più, Roberto. No, non mi frega niente, tanto sono quattro soci. Si stanno quattando e quello che hanno incassato lo stanno, non stanno buttando dalla finestra, capito? Perché è vero senso la parola, stanno buttando i soldi dalla finestra, però l'affitto vuole pagato, la luce vuole pagato, non stanno, per il momento non stanno ordinando niente, capito? Fornitori, già vabbè, già c'hanno un magazzino pieno, però ordini grossi non ne stanno facendo, non serve, cioè, ma è una vergogna, ma ti pare che devo andare in Chivi o devi tenere delle persone lì a fare una cosa del genere, ma non esiste, dai, ma non esiste, lascia perdere. Vabbè, cambiamo argomento, tocchiamo e mi nervosisce, mi dispiace per loro, noi nel piccolo già stiamo lavoricchiando, già lo sai, ma questi tipo tua figlia, questi ristoratori, pizzerie, quelli che vivevano cacchio il sabato, quello dello Speedy Date la settimana scorsa aveva fatto la spesa il giovedì per il sabato, tutto quanto, e per la domenica cacchio arriva il decreto che non si poteva aprire il sabato e la domenica, tutta la roba la presa e se la lampada, perché poi si deteriora la roba. Mia figlia non stava lavorando sabato mattina, anche loro erano tutti organizzati e ha portato tutto a casa, io c'ho il freezer pieno di panini, tramezzini, tutta roba del bar, cosa devi fare? A ti rilampi, quando serve la scongeli e ti rimangi, cosa, pazienza, così, roba gli aperitivi eccetera, capito? Un casino, roba, cioè tutta la prossima settimana ancora, tutta la prossima settimana, capito? Guarda, è quello che a me rompe le scarpe, tanto non cambia niente, cioè loro sono convinti che facendo chiudere cambi qualcosa, a parte tutte queste statistiche, tutte queste cose che dicono, sono tutte cose inventate, perché stanno spaventando il però non puoi distruggere un'attività di ristorazione, turistica, di coso, eccetera, eccetera, perché per quattro imbecilli, tanto non è cambiato niente, ti ricordi a Natale, lavoro, chiuderemo, avremo sacrifici a novembre, in modo che avremo il Natale libero, domani a Manzano. Siamo stati quasi tutti a casa, in quarantena, non dico in quarantena, in clausura, e sono aumentati i numeri dei contagi, ma lo so se dite, no, vuol dire che non serve a niente questa imbecillità che dicono, per cui lascia tutto tranquillo la gente, tanto il 95% sono tutti asintomatici, devi fare un vaccino, col vaccino se contagioso lo stesso non cambia niente, per cui tasso mortalità è bassissimo, per cui lasciamo tutto perdere, lasciamo lavorare. Ma tu ne hai la gente, a parte la gente che sta soffrendo economicamente, la gente che sta soffrendo a livello psicologico, quanti casi di depressione sono aumentati, di gente che si è ammazzata, problemi di coso, di testa, i giovani che non sanno chi sono rampati in strada perché non fanno attività fisica, non fanno niente, quello lì non lo considerano. Ti sto dicendo che è una porcheria, vai. Non serve a niente, Roberto, non serve a niente fare, aver fatto una chiusura così di 15 giorni per le attività commerciali di ristoro, bar e ristorante, non serve a niente, assolutamente. Se tu vuoi che la pandemia abbassi anche a zero, dovevi fare lockdown totale, 15 giorni, lockdown totale, capito? Totale vuol dire che nessuno può uscire di casa, attività tutte chiuse, eccetera. Non chiudi bar e lasci i negozi, e vabbè, a parte i generi alimentari, quello non si discute, ma ci sono negozi di abbigliamento, barbieri, tutti aperti, tutti. E la gente in giro fino alle 10 di sera. A cosa serve? Tu vengo a prenderti, ci vedi come in Piazza d'Italia, ti faccio vedere cosa c'è a quest'ora, anche oggi è venerdì, di ragazzini e di gente tutta montonata, ci facciamo due risate. Lo so, infatti chi ha gestito la situazione non ne capisce niente, perché sono da marzo che stanno battagliando e non hanno concluso niente, hanno soltanto rovinato l'economia italiana. Finché mi dici chiudi, però ti consiglio a rimanere in casa, tipo tua figlia, che loro hanno quelle attività, i bar, i ristoranti, ti blocco tutte le tasse, tu non paghi, quanti mesi dura? 6 mesi, cancellate tutte le tasse di questi 6 mesi, poi quando è che tu c'è l'incasso medio di un bar in quella zona lì, 100 euro alla settimana, 100 euro al giorno, o allora, e io ti pago quello lì, e va, non in base alla denuncia di quello che hai fatto prima. Se tua figlia appena non ha manco visto, che cacchio di conti puoi fare se non hanno neanche aperto? Sono da junior aperti, hanno fatto praticamente luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, a Natale dove tutti sarradi, quindi erano fra 5 mesi, poi ne vogliamo parlare, gennaio siamo di nuovo chiusi, dai vabbè. Non ha preso una lira, vabbè, cazzo, non ha preso una lira, però la Tari arriva, la terza banca devi pagare, l'affitto devi pagare, la luce devi pagare, il fornitore devi pagare, non ha preso una lira. Ma dillo, quelli tipo noi abbiamo uno in cassa integrazione, quando gli hanno dato la cassa integrazione quella di aprile gli hanno data a luglio, poi hanno pagato 2 mesi e poi adesso stiamo aspettando ancora quella di coso di agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Lo so, guarda, io non ci voglio parlare perché non voglio discutere di questa cosa, perché veramente è una cosa schifosa che mi fa solo male, a me mi fa solo male, perché mia figlia è nel settore, quindi mi fa male parlare di questa cosa, è vergognoso, capito? È vergognoso, comunque. Hanno voluto così, va bene, facciamo così, poi vediamo sino a dove vogliono arrivare. Vabbè, cambiamo argomento, lo sai, se no mi arrabbio e cacchio mi rompe troppo le scatole. Ok, cosa stavo dicendo? Sempre il Galaxy, questo qui che sta andando, cosa volevo dire? Poi c'è anche la potenza regolabile, mi pare. Sì, la potenza è da 0 a 15 watt, io lo tengo sempre a 8, 7, 8 watt, perché c'ha i picchi anche a 10, quindi lo tengo così, vabbè, giusto per non tenerlo a 5, giusti, lo tengo a 8 watt. No, bellissima radio, ti sento come che sei qua, Roberto, c'è una recezione da favola, veramente. E poi vedi, esce benissimo. A cosa serve usare tante cose? Va bene. Telefono, scusami. Oh, claro, devo andare via adesso, dai, mi hanno chiamato. Ci sentiamo Mario, se passi domani mattina, dai, se no quando capita. Buon proseguo di serata, buona carica se devi farla e buon tutto. Saluto anche gli amici qua sul 10 se c'è qualcuno. Cuoriti da parte mia, ciao ciao. Ciao Robè, grazie, già ci aggiorniamo, dai, ciao ciao ciao ciao. Thank you. prendo un po' qui, ha voluto. Fai, fai, entro subito io che sto prendendo il cenato. Ok. Vera in casa di una moccia, un giornale ma trupperi, sogna cosa vieni a buccia, cosa le mie fatiseri, è disastra di punia, di casi vestieri strintogli, è di chiappia da sisia, nera liberi ricogli. Un pochetto di musica, comprende? Così ogni tanto mi piace pure la musica sassaresa. La musica sassaresa è un mito, è chiaro che piace a tutti. È una nostalgia, no? Perché adesso prima intendiamo veramente la nausea, perché cioè, in queste zone poi fanno molte, anche la notte dolce facevano molte serate. Allora non si intende nulla che è nella nostalgia, ma nostalgia pure di andare in discoteca, cioè come la vita che facevo prima un po'. Mamma mia, che qualche volta cioè, mi divertivo, ma non sappia ne cosa inventare, non sappia ne che anni, mamma mia, lo COVID. È Covid, è Covid. Non sappia ne cosa inventare, che la malattia vera, gà. Ui. E va, è un po' la nostalgia. Cappa. Uia. E cos'è, tu senti, dici? Lì a dirci l'alimentatore normale, esce a vedere. Sì, sì. E già va bene così. Uia. Cosa ci vuoi fare? Cappa, io non ho mai compreso nulla. A chi tocca se fa alimentatori, in chi sta radio, cioè si chiuda il quadro delle cose, dei canali, se metto tutti e due lineare, senza neanche accendere l'alluminio l'amplificatore, va in contratto qua. Non sento. È un casino questo periodo, un po' a tutti sta creando problemi sta radio. Da quando l'ho presa è sempre così, devo separare gli alimentatori, perché se collego tutti e due insieme non va bene, non va proprio bene, chissà che cavolo ha. Ma tutti e due alimentatori sulla stessa presa c'hai tu o sulla ciabatta? Allora, il mio alimentatore, con gli altri baracchini non lo fa, faccia stare le prese, le cose, i morsetti sono a 4, giusto? Se io adesso mi metto ad attaccare l'alimentatore switching, mi metto solo ad attaccarlo, mi si suda il quadro dove c'è il numero di... e non va più, dove c'è il numero 10, capito? Non capisco perché fa così, invece provi gli altri e funzionano bene, non ha problemi, collegando in quella morsettiera. Capito. Ho capito, tio. Vabbè, non giovetticchia, non lo so. Perché se lo attacchi magari due alimentatori sulla stessa presa o su una ciabatta che non è a norma accesa, di quelle buone può fare insomma di qualche difetto. Non è fatto difetti, no, che se l'ho presa da Fusaro quella lì, non penso che mi abbia dato qualche bidone, no? No, io non ho ciabatta. C'ho un quadro fatto dall'elettricista, capito? Un quadretto sotto la scrivania col salvavita. E arriva la corrente direttamente dalla presa diretta. ciabatte, vabbè, fusaro è di Ribigna, non lo so. Ciabatte buono ce l'ha la Elcom, la Sif, quelle della Ticino, buone, a norma c'è, già te le fanno pagare, però sono cose buone, capito? Fusaro non so, quindi devi compareggia. Può comparare il burro da un negro, cosa ne so io? Comunque ci ha scritto la provenienza, è veramente, magari sono sempre di tipo cinese, però c'è scritto la località dove autorizza la fabbrica, è scritto tutto in italiano. La verità non mi ha mai dato problemi, cioè per quello, no, per la corrente, guarda, per la corrente proprio non mi ha mai dato problemi. L'unico problema che avevo era quello, che mi fa solo con questo apparecchio, con l'altro no, con gli altri no, non ho nessun tipo di problema. Io ho capito, però quando tu vai a prendere una ciabatta è come quando vai a prendere una spina, no? Le spine, le prese le vendono anche i cinesi, non sono marcate Ticino. Ma tu invece vai a Elcom, compri una ciabatta, norma c'è, e c'è la marca Ticino, è della Ticino, capito? Sì, vabbè, marca... Beh, Ticino si chiama, o Ticino, cosa marazzo ci è? E della Ticino sono, una casa costruttrice, capito? No, io ce l'ho una dentro l'armadio, che ho sempre conservato, così, giusto per metterla per terra, per attaccare qualcosa, fare qualche prova, volante, così, capito? Per attaccare al quadro che è sotto la scrivania, sotto la base, però è della Ticino, l'ho presa la Elco, l'ho pagata, mi fa una trentina di euro, 25-30 euro, e a 6 punti, normale, industriale, con l'interruttore, capito? Quindi è una cosa più professionale, mi? Quello ti sto dicendo. Sì, ho capito, lo sto dicendo. Cavolo, però... Ho notato comunque che le antenne vogliono dire molto e anche per i disturbi. Chi di un roccio di cobolo, quello lì prendeva tanti disturbi. La boomerang che c'avevano, io non ho notato questa differenza. Questa che ho, manco baridea, non imbiglia disturbi. Secondo dell'antenna pure mica che entrano le radiofrequenze. Dove di frequenza tra tre parti, basta ci sia qualcosa che lui vede, qualsiasi cosa, può essere sempre un problema, vabbè, però se le cose sono fatte bene già vanno bene, dai. Capo del Rogero, Anto, io ti lascio, dai, vado a vedere un po' di TV, se no sto tutta la sera qua e si incazzano. Ok, già ci ascoltiamo nel prossimo, ciao, buonanotte, buon tutto, saluto anche qui, sono all'ascolto, a domani, ciao. Ciao qua, ci sentiamo, dai, e poi domani faremo quella prova là, ok? Ciao, va bene, sarà già tutto di dovere, ciao. Ciao.